mettere giù come, perché delle mie azioni a sera non si parla se non si vede cazzate. Preparo una misura da cucina alla mia cura. Contavo pure i giorni raccontando queste storie come affari sfiduciati in questo mondo senza quali la fiducia costruita con il guardia e col sorriso. Che la strada da ogni giorno contro spiriti e paradisi. Tentato di l'inferno costruendo occupazione, riprendendo di secondo, riprendendo di suo tempo. Questione di momenti, manca solo poche ore. Sale adrenalina, sale, e mi scaccia la paura. Sale, e il mio corpo e cade sulle tue teste, quello che da sempre meritate. Odio che mi manda indietro. Sale, e il mio corpo e cade sulle tue teste, botte e fuoco sullo stato e le tue guardie che mi passano. Prendersi a male.